Con Renata Ferri, curatrice della mostra Di fronte a una guerra al Forma Meravigli di Milano dal 10 settembre al 20 ottobre 2019. Renata, ben trovata. Grazie, buongiorno. Ci racconti di questa mostra? La mostra innanzitutto nasce da un premio, entrambi gli autori, Emanuele Sartorli e Alessio Domenzi, hanno vinto il premio Amilcare Ponchielli, che è un premio che l'associazione dei fotoeditor, denominata Green, ogni anno assegna al miglior lavoro. Ogni anno l'associazione raccoglie i migliori lavori dei fotografi italiani, ne arrivano a centinaia, vengono selezionati con molta cura, molte riunioni, molto impegno, molto dibattito. Alla fine di queste selezioni rimangono 15 finalisti e da questi si estrae ovviamente ogni anno un vincitore. Il premio Ponchielli è dedicato ad Amilcare Ponchielli, che è stato il primo fotoeditore italiano che ci ha lasciato ormai parecchi anni fa, ma è stato non solo un fotoeditor, è stato un amante della fotografia, un critico di fotografia, è stato uno che ha inventato, diciamo un po', ha dato un grande impulso alla fotografia nei giornali. Sicuramente un uomo molto curioso. Nell'associazione del Green c'è sua moglie, Mariuccia Stiffoni Ponchielli, che è una presenza, diciamo, molto importante, un grande contributo di energia, di memoria a questa iniziativa. Quindi ogni anno, come dicevo, l'associazione premia il miglior lavoro ai fotografi italiani. Nel 2017 ha vinto Emanuele Sartorli con La battaglia di Mosul e nel 2018 ha vinto Alessio Domenzi con Lifesteal, che è, diciamo, incidentalmente hanno vinto due lavori che si riferiscono entrambi alla guerra, all'ISIS. Il lavoro di Emanuele Sartorli, che appunto La battaglia di Mosul, racconta la caduta di Mosul, ultima roccaforte, quindi diciamo è un reportage di guerra vero, duro, puro, molto vicino a ogni immagine. Il fotografo è molto vicino alle vittime, ai feriti, ai militari, ai prigionieri, proprio dentro la scena della battaglia. Mentre il lavoro di Alessio Domenzi, vincitore dell'edizione successiva, è un lavoro molto più meditativo, riguarda sempre la guerra all'ISIS, ma si svolge in tre teatri di guerra che sono Sirte, Raqqa e Mosul, appunto. Domenzi, anche se ha una grande tradizione di fotogiornalismo, negli ultimi tempi, soprattutto con questo lavoro, si smarca dal precedente linguaggio e torna nei luoghi della guerra, diciamo a guerra appena finita, diciamo, potremmo dire macerie fumanti, tutto è già successo, la città è distrutta, le città sono distrutte, siamo di fronte a un'apocalisse. E di fronte a questa apocalisse lui fotografa con un grande formato panoramico di grande suggestione, diciamo riporta la tradizione della fotografia di paesaggio nel paesaggio di guerra, un lavoro molto interessante. Quindi questa lunga premessa per dire che mi sembrava naturale lavorare su questi due autori e costruire una mostra univoca, e questa è la ragione per cui la mostra comprende casualmente due autori che però per il tipo di lavoro, per la tematica, ma anche per il linguaggio che si distaccano, era molto interessante farli convivere in uno spazio come Forma Meravigli a Milano, che non è uno spazio gigantesco, e quindi si riusciva a creare un dialogo tra il momento della guerra e quello che avviene subito dopo, e quindi anche offrire, diciamo, al pubblico due punti di vista, due punti di osservazione, uno che è sicuramente più accelerato, più dentro il momento, e l'altro che ha subito dopo sulle conseguenze della guerra. Questa è stata la mia riflessione per montarli insieme, è stato un po' farraginoso convincerli e portarli a ragionare insieme, perché poi gli autori hanno sempre, diciamo, un'individualità molto forte, però diciamo, ci abbiamo lavorato un po' di mesi e poi siamo riusciti a costruire una cosa che ci ha convinto, ecco. Quanti sono gli scatti esposti e come hai immaginato questa installazione e questa convivenza tra due autori? Dunque, le immagini esposte, il numero esatto non me lo ricordo, ma sono 16 per Domenzi, mi pare, e 23 per Emanuele Satolli. In più c'è un grande wallpaper che è un interno di Mosul, di una casa diroccata, che è un grandissimo wallpaper, è una foto di un interno di una casa che abbiamo ricostruito, diciamo una sorta di parete in cui c'è questo interno devastato su cui poi abbiamo messo delle immagini. Una trovata, diciamo, un po' scenografica che però rimpiccioliva l'ambiente, soprattutto restituiva una produzione anche in scala, secondo me, delle dimensioni. E come ti dicevo, l'idea di farlo insieme mi sembrava, essendo vincitori di un premio, essendo sulla stessa tematica, mi sembrava un bel dialogo, anche perché noi, diciamo, le immagini, probabilmente le immagini di Emanuele Satolli, quelle più legate alla tradizione del fotogiornalismo, siamo abituati a vederle, a consumarle sui giornali, sui social media, eccetera. Quindi messe in mostra costringono, diciamo, un'osservazione un po' più lenta, mentre quelle di Alessio Menzi nascono già per avere una riflessione, veramente di fronte a quell'apocalisse. La domanda che ci facciamo, che non possiamo non farci, è come è possibile, come è successo tutto questo. Sono città devastate, Sirte, Raqqa, Mosul, ovviamente molte altre, cito quelle che non ho fotografato Domenzi, guardandole pensi veramente come è possibile che a pochissima distanza da noi, dal primo mondo, dall'Europa, sia successo tutto questo e che nessuno l'abbia fermato. Molto prima che questo succedesse, perché ovviamente è stata una guerra durata 3 anni, ma con un'escalation fortissima, violentissima, anche molto rapida. Quindi e quelle scene di apocalisse sono talmente suggestive che, messe insieme a il momento subito prima, a questa contemporaneità della guerra tra tutto ciò che distrugge e tutto ciò che è distrutto, i resti, diciamo, mi sembrava che dessero valore, diciamo, alle cronache di uno e alla meditazione dell'altro, e quindi che offrissero due modi diversi di guardarla. Ecco, non è così usuale, diciamo, vedere una mostra che tiene dentro due modalità, due linguaggi, due generi fotografici che vanno a due velocità diverse, ma si integrano molto bene. Poi la scelta, i paesaggi di Alessio Romenzi sono grandissimi, le foto sono cinque foto, come sono quasi delle installazioni da 2 metri di lunghezza, quindi molto molto grandi, in cui si vedono delle macerie delle città, in alcuni casi proprio quasi degli still life di palazzi distrutti, quindi dei monoliti, e poi degli interni molto fuggenti in cui i frammenti sono milioni di frammenti, è tutto con delle dimensioni pazzesche, gigantesche. In chiusura ci lasci tutti i riferimenti internet per saperne di più sulla mostra, ho visto che c'è tutto sul sito internet formafoto.it. Assolutamente, c'è anche sul sito www.fotoedisoft.it, che è il sito del Green, dell'associazione, anche sulla pagina Facebook, e poi ovviamente per fortuna anche la stampa che un po' ci ha sostenuto, su internazionale online c'è un portfolio. Tra l'altro noi abbiamo fatto anche un incontro, sia l'opening sia la costruzione della mostra nasce anche da una grande collaborazione con Francesca Mannocchi, giornalista, scrittrice, inviata per l'Espresso della Repubblica, che collabora costantemente con Alessio Romenzi e saltuariamente anche con Emanuele Satolli. Francesca ha dato a questo lavoro, sia attraverso il suo testo, sia attraverso la conferenza che abbiamo fatto insieme a Forma Meravigli, un contributo straordinario e, diciamo, posso dire che uno spessore che raggiunge solo la parola a volte, diciamo, più delle immagini. Quindi un'analisi, anche una critica, delle riflessioni sulla guerra, sulle sue motivazioni, sulle conseguenze, su cosa significa oggi andare al fronte, raccontare una guerra e quali responsabilità abbiamo noi che facciamo giornalismo di parola o d'immagine di fronte al dolore degli altri, per rimanere in tema e citare la sempre grandissima Susan Sontag. Ricordiamo la mostra Di fronte a una guerra, con foto di Emanuele Satolli e Alessio Romenzi, al Forma Meravigli di Milano dal 10 settembre al 20 ottobre 2019. Un saluto e un ringraziamento alla curatrice Renata Ferri. Un abbraccio, in bocca al lupo e a presto. Grazie, buona giornata a tutti.